ad alta voce, leggere il Decamerone. Federigo degli alberi ama e non è amato, e in cortesia spendendo si consuma, e rimangli un sol falcone, il quale, non avendo altro, dà a mangiare alla sua donna venuta lì a casa, la qual, ciò sappiendo, mutata d'animo, il prende per marito e fallo ricco. Era già di parlar ristata Filomena, quando la reina, avendo veduto che più niuno a dover dire se non Dioneo per lo suo privilegio ben rimaso, con lieto viso disse: a me omai appartiene di ragionare, e io, carissime donne, da una novella simile in parte alla precedente il farò volentieri. Non a ciò solamente che conosciate quanto la vostra vaghezza possa ne cuor gentili, ma perché apprendiate d'essere voi medesime, dove si conviene, donatrici dei vostri guiderdoni, senza lasciarne sempre esser la fortuna guidatrice, la qual non discretamente, ma, come s'avviene, smoderatamente il più delle volte dona. Dovete adunque sapere che Coppo di Borghese Domenichi, il quale fu nella nostra città, e forse ancora è, uomo di grande e di reverenda autorità né di nostri, e per costumi e per virtù molto più che per nobiltà di sangue chiarissimo, e degno d'eterna fama, essendo già d'anni pieno, spesse volte delle cose passate coi suoi vicini e con altri si dilettava di ragionare, la qual cosa egli meglio e con più ordine e con maggior memoria e ornato parlare che altro uom seppe fare. Era usato di dire, tra l'altre sue belle cose, che in Firenze fu già un giovane chiamato Federigo di Messer Filippo Alberighi, in opera d'arme e in cortesia pregiato sopra ogni altro donzel di Toscana, il quale, siccome il più dei gentili uomini avviene, d'una gentil donna chiamata Monna Giovanna si innamorò, nei suoi tempi tenuta delle più belle donne e delle più leggiadre che in Firenze fossero. E a ciò che egli l'amor di lei acquistar potesse, giostrava, armeggiava, faceva feste e donava, e il suo senza alcun ritegno spendeva. Ma ella, non meno onesta che bella, niente di queste cose per lei fatte, né di colui si curava che le faceva. Spendendo adunque Federigo oltre a ogni suo potere molto e niente acquistando, siccome di leggere addiviene, le ricchezze mancarono, e esso rimase povero, senza altra cosa che un suo poderetto piccolo essergli rimasa, delle rendite del quale strettissimamente vivea. E oltre a questo, un suo falcone de miglior del mondo, perché, amando più che mai, né parendogli più potere essere cittadino come desiderava, a campi, là dove il suo poderetto era, se n'andò a stare. Quivi, quando poteva uccellando e senza alcuna persona richiedere, pazientemente la sua povertà comportava. Ora avvenne un dì che, essendo così Federigo divenuto allo stremo, che il marito di Monna Giovanna infermò, e veggendosi alla morte venire, fece testamento, e essendo ricchissimo, in quello lasciò suo erede un suo figliuolo, già grandicello, e appresso questo, avendo molto amata monna Giovanna, lei, se avvenisse che il figliuolo senza erede legittimo morisse, suo erede substituì e morissi. Rimasa dunque vedova, monna Giovanna, come usanza è delle nostre donne, l'anno di state, con questo suo figliuolo, se n'andava in contado a una sua possessione assai vicina a quella di Federigo. Perché avvenne che questo garzoncello si incominciò a dimesticare con Federigo e a dilettarsi d'uccelli e di cani. E avendo veduto molte volte il falcon di Federigo volare e stranamente piacendogli, forte desiderava d'averlo, ma pure non s'attentava di domandarlo, veggendolo a lui esser cotanto caro. E così stando la cosa, avvenne che il garzoncello infermò, di che la madre dolorosa molto, come colei che più non avea, e lui amava quanto più si poteva, tutto il dì standogli d'intorno non restava di confortarlo, e spesse volte il domandava se alcuna cosa era la quale egli desiderasse, pregandolo gliele dicesse, che per certo, se possibile fosse avere, procacerebbe come l'avesse. Il giovanetto, udite molte volte queste proferte, disse: «Madre mia, se voi fate che io abbia il falcone di Federigo, io mi credo prestamente guerire». La donna, udendo questo, alquanto sopra sé stette e cominciò a pensar quello che far dovesse. Ella sapeva che Federigo lungamente l'aveva amata, né mai da lei una sola guatatura aveva avuta, perché ella diceva: «Come manderò io, o andrò a domandargli, questo falcone, che è, per quel che io oda, il migliore che mai volasse, e oltre a ciò il mantien nel mondo. E come sarò io sì sconoscente, che è un gentile uomo al quale niuno altro diletto è più rimaso, io questo li voglia porre». E in così fatto pensiero impacciata, come che ella fosse certissima d'averlo se il domandasse, senza sapere che dover dire, non rispondeva al figliuolo, ma si stava. Ultimamente tanto la vinse l'amor del figliuolo, che ella seco dispose per contentarlo, che esserne dovesse, di non mandare, ma d'andare ella medesima per esso e di recargliele, e risposegli: «Figliuol mio, confortati e pensa di guerire di forza, che io ti prometto che la prima cosa che io farò domattina, io andrò per esso, e sì, il ti recherò». Di che il fanciullo lieto il dì medesimo mostrò alcun miglioramento. La donna, la mattina seguente, presa un'altra donna in compagnia, per modo di diporto, se n'andò alla piccola casetta di Federigo e fecelo addimandare. Egli, perciò che non era tempo né era stato a quei dì d'uccellare, era in un suo orto e faceva certi suoi lavorietti a conciare, il quale, udendo che monna Giovanna il domandava alla porta, maravigliandosi forte, lieto la accorse. La quale, vedendo il venire, con una donnesca piacevolezza levataglisi incontro, avendola già Federigo reverentemente salutata, disse: «Bene stia, Federigo, io son venuta a ristorarti dei danni, li quali tu hai già avuti per me, amandomi più che stato non ti sarebbe bisogno. E il ristoro è cotale che io intendo con questa mia compagna insieme desinarteco domesticamente stamane». «Madonna, niun danno mi ricorda mai aver ricevuto per voi, ma tanto di bene che, se io mai alcuna cosa valsi, per lo vostro valore e per l'amore che portato vo a divenne. E per certo questa vostra liberale venuta è troppo più cara che non sarebbe se da capo mi fosse dato da spendere quanto per adietro ho già speso. Come che a povero oste siate venuto. E così detto, vergognosamente dentro alla sua casa la ricevette e di quella nel suo giardino la condusse e quivi, non avendo a cui farle tener compagnia altrui, disse: Madonna, poiché altri non c'è, questa buona donna, moglie di questo lavoratore, vi terrà compagnia tanto che io vada a far metter la tavola. Egli, con tutto che la sua povertà fosse estrema, non s'era ancor tanto avveduto quanto bisogno gli facea che egli avesse fuor d'ordine spese le sue ricchezze. Ma questa mattina, niuna cosa trovandosi di che poter onorar la donna, per amor della quale egli già infiniti uomini onorati avea, il fe ravvedere. E oltremodo angoscioso, seco stesso, maledicendo la sua fortuna, come uomo che fuor di sé fosse or qua e or là trascorrendo, né denari né pegno trovandosi, essendo l'ora tarda e il desidero grande di pure onorar d'alcuna cosa la gentil donna, e non volendo, non che altrui, ma il lavorator suo stesso richiedere, gli corse agli occhi il suo buon falcone, il quale nella sua saletta vide sopra la stanga, perché non avendo a che altro ricorrere, presolo e trovatolo grasso, pensò lui esser degna vivanda di cotal donna. E però, senza più pensare, tiratogli il collo a una sua fanticella, il fe prestamente pelato e acconcio mettere in uno schedone e arrostir diligentemente. E messa la tavola con tovaglie bianchissime, delle quali alcuna ancora avea, con lieto viso ritornò alla donna nel suo giardino e il desinare che per lui farsi potea disse essere apparecchiato. Laonde la donna con la sua compagna levatasi andarono a tavola e senza saper che si mangiassero insieme con Federigo, il quale con somma fede le serviva, mangiarono il buon falcone. E levate da tavola e alquanto con piacevoli ragionamenti con lui dimorate, parendo alla donna tempo di dire quello perché andata era, così benignamente verso Federigo cominciò a parlare. Federigo, ricordandoti tu della tua preterita vita e della mia onestà, la quale per avventura tu hai reputata durezza e crudeltà, io non dubito punto che tu non ti debbi maravigliare della mia presunzione, sentendo quello perché principalmente qui venuta sono. Ma se figliuoli avessi o avessi avuti, per li quali potessi conoscere di quanta forza sia l'amor che lor si porta, mi parrebbe esser certa che in parte m'avresti per iscusata. Ma come che tu non abbia, io che no uno, non posso però le leggi comuni dell'altre madri fuggire, le cui forze, seguir convenendomi, mi conviene, oltre al piacer mio e oltre ogni convenivolezza e dovere, chiederti un dono il quale io so che sommamente t'è caro. E è ragione, perciò che niuno altro diletto, niuno altro diporto, niuna consolazione lasciata t'ha la tua estrema fortuna. E questo dono è il falcon tuo, del quale il fanciul mio è sì forte invaghito che, se io non gliele porto, io temo che egli non aggravi tanto nella infermità la quale ha, che poi ne segua cosa per la quale io il perda. E perciò ti prego, non per l'amore che tu mi porti, al quale tu di niente sei tenuto, ma per la tua nobiltà, la quale in usar cortesia s'è maggiore che in alcuno altro mostrata. Che ti debba piacere di donarlomi, a ciò che io per questo dono possa dire d'avere ritenuto in vita il mio figliuolo, e per quello averlo ti sempre obbligato. Federigo, udendo ciò che la donna domandava e sentendo che servir non ne la poteva per ciò che mangiargliela aveva dato, cominciò in presenza di lei a piangere, anzi che alcuna parola risponder potesse. Il qual pianto la donna, prima credette che da dolore di dover da sé dipartire il buon falcon divenisse più che da altro, e quasi fu per dire che non volesse, ma pur sostenutasi, aspettò dopo il pianto la risposta di Federigo, il quale così disse: Madonna, poscia che a Dio piacque che io in voi ponessi il mio amore, in assai cose m'ho reputata la fortuna contraria e sonmi di lei doluto, ma tutte sono state leggeri a rispetto di quello che ella mi fa al presente, di che io mai pace con lei aver non debbo. Pensando che voi qui, alla mia povera casa, venuta siete, dove, mentre che ricca fu, venir non degnaste, e da me un picciol don vogliate, e l'abbia sì fatto che io donar non vi possa, e perché questo esser non possa, vi dirò brievemente. Come io udì che voi, la vostra mercè, meco desinar volavate, avendo riguardo alla vostra eccellenza e al vostro valore, reputai degna e convenevole cosa che con più cara vivanda, secondo la mia possibilità, io vi dovessi onorare che con quelle che generalmente per l'altre persone s'usano. Perché, ricordandomi del falcon che mi domandate e della sua bontà, degno cibo da voi il reputai. E questa mattina, arrostito, l'avete avuto in sul tagliere, il quale io per ottimamente allogato avea, ma vedendo ora che in altra maniera il desideravate, è sì gran duolo che servire non ve ne posso, che mai pace non me ne credo dare. E questo detto, le penne e i piedi e il becco le fe in testimonianza di ciò gittare avanti. La qualcosa la donna, vedendo e udendo, prima il biasimò d'aver per dar mangiare a una femmina ucciso un tal falcone, e poi la grandezza dell'animo suo, la quale la povertà non avea potuto né potea rintuzzare, molto seco medesima commendò. Poi, rimasa fuori della speranza d'avere il falcone, e per quello della salute del figliuolo entrata in forse, tutta malinconosa si dipartì e tornossi al figliuolo. Il quale, o per malinconia che il falcone aver non potea, o per l'infermità che pure a ciò il dovesse aver condotto, non trapassar molti giorni che egli, con grandissimo dolor della madre, di questa vita passò. La quale, poiché piena di lagrime e d'amaritudine fu stata alquanto, essendo rimasa ricchissima e ancora giovane, più volte fu da fratelli costretta a rimaritarsi. la quale, come che voluto non avesse, pur veggendosi infestare, ricordatasi del valore di Federigo e della sua magnificenza ultima, cioè d'aver ucciso un così fatto falcone per onorarla, disse ai fratelli: «Io volentieri, quando vi piacesse, mi starei. Ma se a voi pur piace che io marito prenda, per certo io non ne prenderò mai alcuno altro, se io non ho Federigo degli Alberichi». Alla quale i fratelli, facendosi beffe di lei, dissero: «Sciocca, che è ciò che tu dici? Come vuoi tu lui, che non ha cosa del mondo?» «Fratelli miei, io so bene che così è come voi dite, ma io voglio avanti uomo che abbia bisogno di ricchezza. Che ricchezza che abbia bisogno d'uomo!» I fratelli, udendo l'animo di lei e conoscendo Federigo da molto, quantunque povero fosse, siccome ella volle, lei con tutte le sue ricchezze gli donarono. Il quale, così fatta donna e cui egli cotanto amata avea per moglie vedendosi, e oltre a ciò ricchissimo, in letizia con lei, miglior massaio fatto, terminò gli anni suoi. Glossario. Di Messer Filippo Alberighi. In opera d'arme e in cortesia. In opera d'arme. L'espressione indica gli esercizi cavallereschi. Pregiato sopra ogni altro donzel di Toscana. Donzel. Con questa parola si intende il giovane aspirante all'investitura cavalleresca. Dal latino parlato domnicellum, diminutivo di dominus, ovvero signore. L'amor di lei acquistar potesse, giostrava, armeggiava, faceva feste. Armeggiava, vale a dire maneggiava le armi per dar spettacolo. Usanza è delle nostre donne, l'anno d'estate, con questo suo figliuolo. L'anno d'estate, vale a dire ogni anno, in estate. L'articolo ha la funzione di un pronome distributivo. Falcon di Federigo volare. E stranamente piacendogli, forte di... Stranamente. L'avverbio significa molto, oltremodo, fuori misura. Mai da lei una sola guatatura aveva avuta. Guatatura. Il termine significa occhiata, sguardo. Deriva da guatare, che è germanismo, da vaten, ovvero essere di guardia. Acconcio, mettere in uno schedone e arrostir diligente. Schedone. Il termine indica lo spiedo lungo e sottile nel quale si infilzano i volatili per cuocerli arrosto. Non avea potuto né potea rintuzzare molto se come desima. Rintuzzare, vale a dire ottundere, reprimere, dal latino parlato tuditiare, cioè battere ripetutamente. Che voluto non avesse, pur veggendosi infestare, ricordatasi del valore... Infestare. Il verbo significa infastidire, importunare, e deriva dal latino infestum, cioè diretto contro, dannoso. In letizia con lei, miglior massaio fatto, terminò. Massaio. Il termine significa amministratore, dal latino tardo massarium, derivato da massam, nel senso di podere, tenuta. Il parallelismo fra la novella di Nastagio degli Onesti e quella di Federigo degli Alberighi, che si succedono immediatamente nella quinta giornata, è ricercato e quasi potremmo dire esibito dal Boccaccio a diversi piani narrativi. Eppure, a livello linguistico, si manifesta la diversità di ispirazione che pure c'è fra l'una e l'altra novella. Più eterogeneo l'impasto della novella di Nastagio, che è caratterizzata da un netto contrasto fra le scelte lessicali crude e violente della descrizione infernale e quelle rasserenate dell'ironica conclusione. più omogeneo quello della novella di Federigo, tutta costruita invece sul tema della cortesia e pervasa da cima a fondo da un lessico cortese tecnicamente e culturalmente assai ben connotato. Il termine chiave della novella è appunto cortesia, messo subito in esponente dall'autore nella rubrica, cioè nel titolo, e poi più volte ripetuto. Ma cortesia e cortese sono circondati a raggiera da una serie veramente nutrita di altri termini appartenenti allo stesso campo lessicale. Donzel, Madonna, Monna e Garzoncello, opere d'armi, esercizi cavallereschi, giostrare e armeggiare, sconoscente, sconveniente, ristoro, compenso, e ristorarti, compensarti, valore, somma fede, grande devozione, mercè, gentilezza, onore, onorare e eccellenza. Ad alta voce, leggere il Decamerone, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.